39. Zuppa Regina. Dal nome si dovrebbe giudicare per la migliore di tutte le zuppe. Certamente si può collocare fra le più signorili, ma c'è esagerazione nel titolo. Si fa con le carni bianche del pollo arrosto, nettate dalla pelle e dai tendini. Tritatele bene con la lunetta, poi pestatele in un mortaio con 5 o 6 mandorle dolci sbucciate e con una midolla di pane inzuppata nel brodo nel latte, in proporzione di 1/5 o 1/6 della quantità della carne. Quando il composto sarà pestato ben bene, passatelo dall'ostaccio, ponetelo nella zuppiera e scioglietelo con un ramaiuolo di brodo caldo. Tagliate il pane a dadini, friggetelo nel burro e gettate anche questo nella zuppiera. Dopo versateci il brodo bollente, mescolate e mandate la zuppa in tavola col parmigiano a parte. Questa minestra può venire opportuna quando, dopo un pranzo, rimangono avanzi di pollo arrosto o lessi, benché sia migliore quando è fatta di tutto arrosto. Le mandorle servono per dar maggiormente al brodo l'aspetto latteo, ma il liquido non deve riuscire troppo denso. Alcuni aggiungono qualche rosso d'uovo sodo stemperato nel brodo.